Mr. Bloom, nel frattempo, seguitava a gironzare nelle vicinanze, lungo le pietre presso il braciere di carbone, davanti alla garitta del guardiano comunale, il quale, scoppiando evidentemente dalla voglia di lavorare, a quel che gliene sembrò, schiacciava un bel sonnellino a tutti gli effetti per proprio conto, mentre Dublino dormiva. Lanciava però di quando in quando un'occhiata all'interlocutore, dall'abito tutt'altro che immacolato di Steven, come se avesse già visto quel nobile messere in un qualche posto, per quanto il dove non fosse in grado di precisarlo con esattezza, né avesse la più lontana idea del quando. Essendo una persona con la testa sulle spalle, che poteva dar dei punti a molta gente in fatto di acute osservazioni, egli notò inoltre il cappello sconquassatissimo e gli articoli di vestiario, uno più scalcinato dell'altro, testimonianza di impecuniosità cronica. Palesemente era uno scroccone, ma quanto a questo è solo questione che ognuno sfrutta il suo vicino e questo e qualcun altro, al peggio, per dirla tutta, non c'è mai fine. E quanto a questo, se l'uomo della strada venisse a trovarsi sul banco degli accusati, i lavori forzati, con o senza l'opzione dell'ammenda, sarebbero in vero una rara avis. In ogni caso doveva avere un bel po' di improntitudine a interferire col prossimo suo a quell'ora della notte o della mattina. Bella faccia tosta quella, davvero. La coppia si separò e Steven raggiunse Mr. Bloom, che, col suo occhio esercitato, non poté fare a meno di rilevare come egli fosse soggiaciuto alla blandiloquenza di quell'altro parassita. Alludendo all'incontro, egli disse con una risata, cioè a dire Steven, «Si trova un po' a mal partito. Mi ha domandato di domandarle di domandare a qualcuno di nome Boylan, un attacchino, di dargli un posto di uomo sandwich». A questa informazione, che risvegliò apparentemente in lui scarso interesse, Mr. Bloom rivolse distrattamente lo sguardo per un mezzo secondo circa in direzione di una draga che si fregiava dell'inclito nome di Eblana, attraccata alla riva della dogana e assai probabilmente avariata. Dopodiché osservò evasivamente: «Ognuno ha la sua porzione di fortuna, si dice. Ora che lo dice, il suo volto mi era familiare. Ma a parte questo, per il momento, di quanto l'ha alleggerito?» indagò, «se non sono troppo indiscreto». «Mezza corona», ribatté Steven. «Credo che ne abbia bisogno per andare a dormire da qualche parte». «Ne ha bisogno», sentenziò Mr. Bloom, senza palesare la minima sorpresa per quell'informazione. «Son pronto a prestar fede a questa asserzione e mi rendo garante che si trova invariabilmente in queste condizioni. Ognuno secondo le sue necessità o ciascuno secondo le sue azioni. Ma per parlare più in generale, dove?» aggiunse con un sorriso. «Intende dormire lei. Andare a piedi fino a Sandy Cove è fuori questione. E anche supponendo che lo facesse, non potrebbe entrare dopo quanto le occorso alla stazione di Westland Row. Si prenderebbe una stancata per niente. Non ho certo la presunzione di dettarle legge, ma perché ha lasciato la casa di suo padre?» «Per cercare sfortuna», fu la risposta di Steven. «Ho incontrato il suo riverito signor padre di recente», rispose diplomaticamente Mr. Bloom. «Oggi, in effetti, o a voler essere più precisamente rigorosi, ieri. Dove abita al momento? Mi è sembrato di capire nel corso di una conversazione che egli ha traslocato». «Credo che sia a Dublino, da qualche parte», rispose distrattamente Steven. «Perché?» «Un uomo pieno di qualità», disse Mr. Bloom, alludendo a Mr. Dedalus Senior. «Per più di un rispetto. Era conternato se mai uno ve ne fu. È molto orgoglioso e ha buon diritto di lei. Potrebbe tornare a casa, forse», arrischiò, col pensiero sempre rivolto alla spiacevolissima scena della stazione di Whistler Row, allorché fu del tutto evidente che gli altri due, cioè Mulligan e quel turista inglese suo amico, che alla fine dettero scacco matto al loro terzo compagno, cercavano palesemente, come se quella stazione fosse loro dominio, di seminar per la strada Steven nella calca, il che si fecero. Non si udì risposta alcuna al suggerimento, tuttavia, qual che si fosse, essendo l'occhio dello spirito di Steven troppo occupato a raffigurarsi il quadro del focolare domestico, l'ultima volta che l'aveva visto, con sua sorella Dilly seduta accanto al fuoco, i capelli sciolti, in attesa che l'infuso molto allungato di cacao di Trinidad bollisse nel bricco nero di fuliggine, sì, da poterlo ambedue bere con brodo d'avena a mo' di latte, dopo le aringhe del venerdì che avevano già mangiate 2 e 1 penny, con un uovo a testa per Maggie, Budi e Katie, mentre il gatto, nel frattempo, sotto lo strizzatore, divorava una pappa di gusci d'uovo e teste e lische di pesce abbrustolite su un quadratino di carta da imballaggio, in ossequio al terzo precetto della Chiesa di digiunare e fare astinenza nei giorni comandati, dato che erano le tempora, o se non quelle, i giorni di cenere o qualcosa di simile. No, ripeté ancora Mr. Bloom. Io personalmente non nutrirei eccessiva fiducia in quel suo compagno di ribotte che brilla per l'umorismo, e cioè il dottor Mulligan, come guida, filosofo e amico, se fossi nelle sue scarpe. Sa benissimo far gli affari suoi, per quanto con ogni probabilità non si sia dovuto fino ad oggi render conto di cosa significhi stringere la cintola. È naturale che lei non abbia osservato quanto ho osservato io, ma non mi causerebbe la minima sorpresa l'apprendere che un pizzico di tabacco o un qualche narcotico è stato messo nel suo bicchiere per qualche scopo recondito. Gli risultava comunque, da quanto aveva sentito, che il dottor Mulligan era un versatile uomo di infinito talento, per niente affatto limitato al campo della medicina, che si faceva già avanti tra le prime fila nel suo campo. E se era vero quel che si affermava, non era lungi dal godere di una fiorente clientela, in un futuro non troppo lontano, in qualità di medico di un certo tono, che ricavi un discreto guadagno per i suoi servizi, in aggiunta al quale stato professionale, il salvataggio di quell'uomo da morte certa per annegamento mediante la respirazione artificiale e le cosiddette misure di pronto soccorso a Skerries, oppure a Malahide, era stato, doveva ammetterlo, un'azione da persona di gran fegato, che non si sarebbe mai potuta lodare abbastanza, cosicché lui, francamente, non riusciva a scandagliare la ragione di quel comportamento, se non attribuendolo a mera perversità o gelosia pure semplice. A meno che il tutto si riduca a una sola cosa, e cioè che lui le ruba tutte le idee, egli si azzardò a gettarla. L'occhiata guardinga, metà sollecitudine, metà curiosità, con in più l'atteggiamento amichevole che egli lanciò verso l'espressione fattasi ora tetra dei lineamenti di Steven, non gettò molta luce. Anzi, non ne gettò per niente sul problema se egli si fosse lasciato malamente corbellare, a giudicare da 2 o 3 manifestazioni di depressione che gli erano sfuggite, oppure se al contrario egli ci avesse visto ben chiaro e per una ragione o per un'altra, nota a lui soltanto, avesse permesso che le cose seguissero più o meno il loro. La povertà più nera sortiva appunto quell'effetto, ed era quasi certo che, sebbene fornito di grandi capacità pedagogiche, egli trovasse non poche difficoltà per sbarcare il lunario. Adiacente all'orinatoio pubblico per uomini, egli scorse un carretto di gelataio attorno a cui un gruppo, presumibilmente di italiani, nel calore di un alterco, dava la stura a certe volubili espressioni del loro vivace linguaggio in un modo particolarmente animato, essendo sorte tra i singoli alcune lievi divergenze. Puttana Madonna, ma che ci dia i quattrini? Ho ragione, culo rotto. Intendiamoci, mezzo sovrano più. Dice lui però. Farabutto. Mortacci sui! Ma ascolta, 5 la testa più! Mr. Bloom e Steven entrarono nel rifugio del vetturino, una struttura di legno senza pretese, dove, in precedenza, egli aveva raramente, seppur mai, messo prima piede, avendo l'uno precedentemente sussurrato all'altro qualche accenno riguardo al tenutario del luogo, che si diceva essere l'un tempo famoso Scorticacapre, Fitzharris l'invincibile, per quanto egli non potesse rispondere della realtà dei fatti in cui poteva darsi non fosse rinvenibile il minimo vestigio di verità. Alcuni momenti dopo, ecco i nostri due nottambuli tranquillamente a sedere in un angolino discreto, sotto il fuoco degli sguardi di una raccolta decisamente miscellanea di derelitti e vagabondi e altri inqualificabili esemplari del genere homo, già ivi occupati a mangiare e bere, caratterizzati dal vario discorrere e per i quali essi apparentemente costituivano oggetto della più viva curiosità. Oltre a una buona tazza di caffè, Mr. Bloom si azzardò a suggerire, plausibilmente per rompere il ghiaccio, mi sembra opportuno che lei debba consumare anche qualcosa di solido, come a modo esempio un maritozzo. In conseguenza, il suo primo passo fu quello di ordinare tranquillamente, col suo caratteristico sang-froid, queste vettovaglie. Gli hoi polloi rappresentati da fiaccheraio, scaricatori o quali che fossero, dopo un sommario esame, distolsero gli occhi altrove, evidentemente insoddisfatti, se non che un individuo alticcio dalla barba rossa, parte dei cui capelli erano grigiastri, probabilmente un marinaio, continuò a fissarli per un notevole lasso di tempo prima di trasferire al pavimento la sua attenzione estatica. Mr. Bloom, avvalendosi della libertà di parola, dato anche che conosceva di saluto alla lontana la lingua dei disputanti, per quanto a dire il vero, alquanto nell'imbarazzo circa la parola voglio, fece rilevare al suo protégé in un tono di voce più che udibile a propos della battaglia campale che ancora infuriava terribilmente nella strada. Una bella lingua. Per cantare, voglio dire. Perché non scrive la sua poesia in quella lingua lì? Bella poetria. È così melodiosa, è così piena. Bella donna. Voglio. Steven, che stava facendo del suo meglio per sbadigliare se ci riusciva, soffrendo d'una stanchezza diffusa, rispose: roba da spaccare i timpani a un'elefantessa. Si stavano leticando per una faccenda di soldi. Davvero? Chiese Mr. Bloom. Ma si capisce, soggiunse pensoso, riflettendo tra sé che tanto per cominciare c'erano più lingue di quanto non fosse assolutamente necessario. Forse è solo quel fascino meridionale di cui è circondata. Il tenutario del rifugio interruppe questo tête-à-tête mettendo sul tavolo una tazza ribollente e ricolma d'una scelta pozione denominata caffè e un esemplare di maritozzo pressoché antidiluviano, o almeno tale ne era l'aspetto. Dopodiché batté in ritirata verso il banco. Mr. Bloom, essendo deciso a squadrarlo ben bene più tardi, ma a non aver l'aria di. Per la qual ragione incoraggiò Steven a procedere con un'occhiata, mentre faceva gli onori spingendo surrettiziamente la tazza di quello che provvisoriamente si stimava fosse caffè, gradualmente più vicino a lui. I suoni sono delle imposture, disse Steven dopo una pausa di un qualche tempo. Come i nomi? Cicerone, Podmore, Napoleone, Mr. Goodbody, Gesù, Mr. Doyle. Gli Shakespeare erano comunissimi, come i Murphy. Cosa c'è in un nome? Sì, è verissimo, Convenne Mr. Bloom con naturalezza. Si capisce. Anche il nostro nome è stato cambiato, aggiunse, spingendo il cosiddetto maritozzo. Il marinaio dalla barba rossa, che fissava il suo occhio clinico sui nuovi venuti, abbordò Steven, che aveva prescelto come oggetto particolare della sua attenzione, domandandogli senza ambagi. e il suo nome qual è? Si è lecito. All'ultima ora Mr. Bloom toccò la scarpa del compagno, ma Steven, trascurando evidentemente quella calda pressione che gli giungeva in attesa, rispose: Dedalus. Il marinaio non gli staccava di dosso lo sguardo degli occhi sonnolenti dalle grosse borse, piuttosto tumefatti da generose libagioni, a preferenza di quel buon vecchio Holland e acqua. Lei conosce Simon Dedalus? Chiese alfine. Ne ho sentito parlare, disse Steven. Mister Bloom si vide per un momento in alto mare, accorgendosi che tutti gli altri tendevano palesemente l'orecchio. È un irlandese, affermò il prode uomo di mare, sempre con lo stesso sguardo negli occhi e annuendo. Tutto irlandese. Troppo irlandese, ribatté Steven. Quanto a Mister Bloom, non ci vedeva né capo né coda in tutta quella questione, e si stava appunto chiedendo quale eventuale rapporto, quando il marinaio di sua iniziativa si volse agli altri avventori del rifugio con questa osservazione. L'ho visto far saltar via due uova di sopra a due bottiglie a 50 yard di distanza, tirando di sopra alla spalla. Una sinistra infallibile. Per quanto impedito da una lieve balbuzia intermittente e da una certa goffaggine nel gestire, tuttavia faceva del suo meglio per farsi capire. Diciamo che la bottiglia sia là. Si misurarono 50 yard, uova sulle bottiglie. Alza il fucile al di sopra della spalla, mira. Si voltò a metà, chiuse completamente l'occhio destro. Poi contorse di sbieco i lineamenti e fulminò la notte con lo sguardo, atteggiando il volto a un'espressione quanto mai sgradevole. Pam! Gridò quindi una prima volta. Il pubblico intero attendeva, preparandosi a una detonazione addizionale, essendo rimasto un altro uovo. Pam! Gridò per la seconda volta. Evidentemente annientato anche l'uovo numero due, scosse la testa e strizzò l'occhio, aggiungendo con un'aria sitibonda di sangue. Buffalo Bill tira e fa centro. Mai sbagliò, né mai sbaglierà. Seguì un intervallo di silenzio, finché a Mr. Bloom, per un bisogno di cortesia, venne in mente di chiedergli se era successo a un campionato di tiro come il Beasley. Come dice? Fece il marinaio. Molto tempo fa, proseguì Mr. Bloom senza deflettere di un millimetro. Beh, rispose il marinaio, ammorbidito fino a un certo punto dal magico influsso del diamante che solo taglia un altro diamante, potrebbero essere un 10 anni. Faceva il giro del mondo con il circo reale Engler. Gliel'ho visto fare a Stoccolma. Coincidenza curiosa, confidò Mr. Bloom a Steven sottovoce. Mi chiamo Murphy, continuò il marinaio. Dimmi Murphy di Carrigaloe. Sapete dov'è? Porto di Queenstown, rispose Steven. Giusto. Disse il marinaio. Forte Camden e Forte Carlisle. È di là che vengo. Sono di là. La mia mogliettina sta laggiù. È là che m'aspetta, lo so. Per l'Inghilterra, la casa e la beltà. È la mia legittima sposa. E sono già 7 anni che non la vedo, andando sempre per mare.